Come una grande vittoria, io direi, è stato completamente smontato il processo che aveva condannato Mimmo e altre numerose persone del paese di Riace. E quindi ieri sera è stato un momento veramente di grande gioia in paese. E ricordo che le assoluzioni a formula piena hanno riguardato 16 persone su 18 e poi ci sono queste due lievi condanne a Mimmo e a un'altra imputata, sempre di Riace, che riguardano però, diciamo, un reato di carattere amministrativo, quindi da questo punto di vista è stato, per quello dicevo, è stato smontato il processo, quello che noi avevamo più volte chiamato processo politico, appunto. Però fa specie che tra il primo e il secondo grado si è passati da 13 anni a un anno e mezzo con pena sospesa. Com'è possibile secondo te questo dal punto di vista anche giudiziario? Questo è possibile perché sostanzialmente in appello i giudici non hanno riconosciuto il carattere delinquenziale di questa associazione. Il principale capo d'accusa era appunto un'associazione a delinquere tra queste persone. Dal momento in cui decade quella volontà a delinquere, che ricordo già nel 2019 la Cassazione per altre cose ma si era espressa proprio sulla difficoltà di intravedere una volontà di delinquere da parte di Mimmo e di conseguenza anche degli altri imputati. Quindi una volta decaduta quella volontà, ricordiamo anche che c'è stata durante il processo una testimonianza chiave del colonnello della Guardia di Finanza a testimoniare quello che di fatto nelle indagini non è stato trovato, e cioè non un euro nei conti di Mimmo Lucano. È evidente che poi quando salta questo, allora chiaramente viene smontato, diciamo, tutta l'idea che aveva messo in piedi il processo. Quindi insomma gioia per questa sentenza, però nessuno potrà ridare a Mimmo il tempo passato ai domiciliari oppure lontano da Riace. Cosa resta oggi del modello Riace? Hai perfettamente ragione, soprattutto nessuno potrà ridare alle centinaia di persone che hanno lasciato il paese in questi anni la possibilità di continuare a vivere in quella che la pace sociale di quel borgo. Rimane il modello Riace, che essendo, diciamo, un moto dell'anima, oserei dire un moto umano, quasi liberatorio, affatto burocratico, ha trovato il modo di rimanere in piedi in questi ultimissimi mesi, e quindi con decine invece che con centinaia, ci sono circa 50 persone adesso ad abitare il villaggio globale, con dei fondi collettivi invece che pubblici, e quindi raccolti grazie alla solidarietà nazionale e internazionale di molte persone invece che con i soldi del Ministero degli Interni. Di fatto il modello Riace è ancora in piedi grazie a dei corridoi umanitari che hanno portato diverse famiglie direttamente dall'Afghanistan, associazioni romane, e quindi, diciamo, rimane questo, rimane molta fatica. Rimane un paese che è stato comunque per 5 anni messo alla gogna e additato come criminale. In un'intervista su Repubblica Mimmo sottolineava come Salvini abbia utilizzato questo processo anche per fini politici, quindi insomma questa vicenda ha dei chiari connotati politici. Beh, a me sembra veramente che siano chiarissimi. Un po' di tempo fa, quando è iniziato tutto, dal territorio mi è sembrato di vedere quel piccolo paese che ha vissuto per 20 anni in pace trasformarsi in un campo di battaglia fra la solidarietà e la propaganda anti-immigrazione. È evidente che questo modello studiato in tutta Europa, che ha attirato l'attenzione da parte di tutti, quello che è più rivoluzionario anche dei paesi limitrofi, era diventato scomodo in una retorica nel paese che andava dicendo che l'immigrazione è un problema di carattere securitario. Riace, diciamo così, spazza via qualunque dubbio su questo. È assolutamente, ma nemmeno una risorsa, è qualcosa di infinitamente naturale. Ci sono case vuote, persone senza case, quindi poi insomma 2 più 2 per Salvini fa 0 e invece per noi fa 4. Credo sia anche giusto che queste persone meritano adesso un attimo di ricomposizione rispetto alla loro dignità, insomma.